e iniziamo con la puntatissima. Allora, l'ospite di oggi necessita di una piccola presentazione. Allora, la sua caratteristica unica rispetto agli altri ospiti intervenuti in trasmissione è che lui si è presentato alle recenti elezioni politiche italiane e non è stato eletto nelle fila del partito più votato. Paolo Margari, lei è uno di noi! Allora, è la prima volta che noi ospitiamo un politico in pectore. Non citeremo mai il suo partito per non fare morire d'invidia tutti gli altri partiti, anche perché non siamo una trasmissione politica, noi siamo una trasmissione umoristica, alle volte satirica, ma soprattutto siamo una trasmissione qualunquista. Margari, sappia che noi abbiamo votato per lei, come avremmo votato per qualunque altro politico non eletto che avesse accettato di venire in trasmissione. Però lei, Margari, è un primato. Noi l'abbiamo votata per primo. Margari, lei è uno di noi! Benvenuto in trasmissione! C'è da crederci, eh? Sì, sì, assolutamente. Innanzitutto, c'è... ecco... dite che mi avete votato, ma non sapete neppure come si pronuncia il mio cognome. E si pronuncia Margari. Margari! Però, cioè, non fa differenza sulla scheda elettorale, chiaramente. Anche perché non avevo visto accenti. Comunque, benissimo. Non ci sono Margari. Accenti. Quello è il segreto, se uno appunto... Margari. Allora... Margari. Quale preferisce? Cioè, Margari. Margari. C'è il barbatrucco. Sì. Margari. Allora, io le faccio una domanda subito. Ma lei ci ha pensato che se fosse stato eletto avrebbe passato i prossimi 5 anni a Roma... alla ricerca di un parcheggio? Già, un parcheggio in Parlamento, semmai. Anche in auto, perché a Roma è difficile parcheggiare, quindi lei sarebbe rimasto in doppia fila per 5 anni in attesa di trovare un posto. In doppia fila alla Camera dei Deputati, pazienza, insomma, c'è chi l'ha fatto in passato, sarebbe stato così sconveniente. Questa è satira politica. Allora, no, al massimo si trova una qualche buca dove piazzarsi, visto che è pieno di buca. Parcheggio sotterraneo, parcheggio sotterraneo. Tante buche in Parlamento. Ci racconti brevemente... di lei. Che cosa fa? Sappiamo che lei viene dalla Puglia, quindi dal tacco d'Italia, e noi stiamo imparando a conoscere la regione attraverso un amico, un personaggio che ci viene a trovare ogni tanto. Un ospite. Ci racconti unico. Un po' di lei. Dunque, io vengo esattamente dal tacco d'Italia, il Salento, quindi ho girato un po' negli ultimi 10 anni, ho vissuto a Londra, a Sheffield, a Roma, a Milano e ora a Bruxelles da 4 anni e mi trovo abbastanza bene qui. Ho avuto un passato, diciamo, variegato dal punto di vista delle esperienze sia di studio che professionali, quindi ancora non ho capito cosa fare da grande, solo che sono diventato grande, ma ancora non ho capito cosa fare, ma faccio sempre qualcosa. Quindi fra le tante cose c'è stata questa esperienza politica, che è sempre stata la mia passione, del resto la politica, la partecipazione. Io mi occupo di marketing, sono un consulente di marketing, soprattutto digitale, lavoro da circa 10 anni in questo settore, ho anche una piccola azienda in Estonia, sono anche residente in Estonia. Ma mi sono occupato anche di ricerca accademica, di geografia economica, ho conseguito un dottorato a Bari e quindi questo, diciamo, sono le due anime del mio passato, una di marketing, l'altra di ricerca accademica nell'ambito della geografia e dell'economia. Benissimo, quindi questa è la parte intellettuale. Invece il Margari, quello umano, quello... piace a Margari? Piace la cucina? Assolutamente. Non solo la cucina, quelle... mangiare o cucinare? Anche cimentarmi con la cucina, sì. E soprattutto... e sport? Non sono un grande sportivo, ho fatto l'arbitro di calcio, devo dire. L'arbitro? Sì, sì, no, in Italia. Si gioca a pallone, non si è fa sport, l'arbitro. Ma effettivamente uno deve correre, soprattutto quando lo inseguono i tifosi. Ho sempre pensato all'arbitro così come una forma psicologica diversa, un pensiero filosofico diverso, perché di solito uno vuole giocare a pallone. E come arbitro mai venuta la voglia di dare un calcio al pallone durante una partita? Dare un calcio a qualche tifoso che... palla. Beh, diciamo che ci sono tanti modi con i quali l'arbitro può partecipare a volte e diciamo anche con i propri errori che capitano, sono umani. E ricordo un insegnamento che mi diede uno dei commissari che vengono in incognito per valutare gli arbitri, perché un arbitro come fa carriera? Perché vengono dei commissari della Federcalcio, dell'AIA, per valutarli, quindi a fine partita a volte si presentano, dicono ok, ti do qualche suggerimento. Ricordo ci fu... un errore da parte mia, assegnai un rigore che non c'era e poi per compensare questo errore assegnai un rigore all'altra squadra. E ricordo l'insegnamento fu non coprire un errore con un altro errore, perché è chiaro, d'accordo, tu volevi bilanciare, no, diciamo, questa ingiustizia fatta involontariamente con un'ingiustizia fatta volontariamente, ma in realtà poi passi agli occhi di tutti come una persona che non sa fare il suo lavoro. In realtà bisogna ammettere l'errore e tenerlo lì, apprendere da questo. Quindi questo è un insegnamento che ho preso e che vale in altri settori anche. D'accordo sotto l'aspetto arbitrale, però a livello di giustizia hai fatto giustizia, con un rigore inesistente hai pareggiato i conti. Filosoficamente non so se si può chiamare giustizia quella che viene fatta attraverso un'ingiustizia, perché d'accordo uno può sbagliare una volta, però sbagliare due insomma significa fare un'altra ingiustizia, quindi agli occhi del pubblico che è esterno, praticamente chi deve giudicare passa per uno che fa sostanzialmente cose ingiuste, quindi non so quanto sia giusta quell'ingiustizia. Ma Margari l'arbitro e Margari nella vita, è facile per lui ammettere un errore? Sì, bisogna ammettere gli errori. E non è facile sbagliare, perché a volte quando una persona non... diciamo non osa, non compie grandi errori. Se non si compiono grandi errori è difficile anche apprendere, diciamo. Grandi insegnamenti arrivano da grandi errori. Molte persone magari si tengono un po' al limite e quindi credono di crescere, ma in realtà senza sbagliare non si cresce, secondo senza me. Senza mettersi in gioco. Esatto. Benissimo. Allora, lei si è presentato, facciamo una piccola introduzione prima della pausa musicale, alle recenti elezioni politiche in Italia, che hanno visto uno stravolgimento del panorama politico in Italia. E una domanda semplice, giusto per introdurre, ma è stato difficile fare una campagna elettorale dall'estero per la circoscrizione estera? Sì, è completamente differente rispetto a quella che si fa in Italia, perché abbiamo delle ripartizioni. Intanto, come funziona l'estero? Abbiamo 18 componenti del Parlamento, 12 alla Camera e 6 al Senato, che vengono eletti nella circoscrizione estero, che è composta da 4 mega ripartizioni. C'è quella Europa, poi c'è Nord America, Sud America e tutto il resto. Tutto il resto. Africa, Asia, Oceania e Antartide. Infatti, non so ci chi. Sono italiani anche in Antartide? Ah, ci sarà una decina di i ricercatori. Sì. Ci sono delle basi che non sono italiane, ma sì. Quindi chiaramente uno può votare ovunque. Quelli in Antartide si conservano bene, secondo al me. Fresco. Al freschissimo. Sì. E quindi effettivamente non si può fare una campagna, diciamo, tradizionale, non si possono fare comizi, cioè, gli spazi sono elevati. Però vi dico una cosa, ad esempio in Europa, su circa 2 milioni di elettori, più del 50% sono concentrati in due paesi. Secondo voi quali sono i due paesi? Scommettiamo che uno è il Belgio. Andorra e Liechtenstein. Ecco, esatto. Vabbè, Germania, Belgio, forse Francia, Belgio, Inghilterra. Svizzera. Il Belgio è fra i primi paesi per emigrazione, però non è il principale, perché dopo c'è il Regno Unito, poi c'è il Belgio effettivamente, poi c'è anche la Spagna. In Belgio c'è un'emigrazione più datata. Ecco, io anche per preparare la campagna elettorale ho fatto un po' di studi sulla popolazione. L'età media, ad esempio, in Belgio, vediamo se facciamo un piccolo quiz adesso. Qual è l'età media degli italiani in Belgio? Degli italiani immigrati in Belgio, forse l'età media sui 50, va? Cinquantina. Vicino, 46 e mezzo. Quindi credevo peggio. È una delle più elevate, effettivamente. Vabbè, perché Fabrizio, te sei sopra la media, ma di un bel po'. Io sopra la media, quindi. Perché effettivamente abbiamo una neoimmigrazione, ad esempio a Londra, dove l'emigrazione nel Regno Unito è molto concentrata su Londra, in Spagna ad esempio, dove non era presente fino a 20 o 30 anni fa, adesso invece tantissimi italiani si sono spostati in Spagna, anche soprattutto 10 anni fa, mentre in Belgio, a parte Bruxelles, non c'è molto nel resto di neoimmigrazione, è tutta un'immigrazione più datata. Quindi già terza generazione ormai. Sì, seconda, terza, sì. Anche sì. Perché poi qui, diciamo, Bruxelles vede un'emigrazione di prima generazione, ma soprattutto istituzionale, vengono per lavorare nelle istituzioni europee, quindi sì. Persone molto legate al paese d'origine, non è quell'emigrazione che ha lasciato alle spalle il paese ed è partita per un'avventura, quindi sì, è anche forse una tipologia di italiano un po' diversa. Sì, infatti esistono diverse anime, ecco questo tornando al discorso di come si affronta una campagna elettorale all'estero, esistono diverse anime nella popolazione italiana all'estero, c'è chi va per scelta, c'è chi va un po' per costrizione perché non ha avuto opportunità in Italia, c'è chi è nato all'estero e molti italiani all'estero non parlano italiano, soprattutto questo accade in Sud America, dove più dell'80% della popolazione italiana in Sud America è nata in Sud America, quindi sono seconda e terza generazione. Hanno solo il cognome italiano. Il cognome, a volte alcuni avevano semplicemente un nonno o un bisnonno italiano e quindi hanno acquisito la cittadinanza senza mai essere stati in Italia, senza conoscere l'italiano. E quindi anche in questo caso è difficile comunicare perché bisogna, anche il materiale elettorale deve essere in lingua locale. E questo accade anche e soprattutto in Europa, in Germania, dove vi sono alcuni italiani che non parlano italiano e parlano solo il tedesco. Quindi già questo aspetto linguistico è importante. Poi c'è un aspetto culturale, nel senso che per quanto noi crediamo che gli italiani seguono la politica, già non la seguono in Italia, figuriamoci all'estero. Ad esempio, altro quiz, qual è la percentuale di italiani all'estero che vota, secondo voi? Perché? È molto bassa, direi bassa, molto bassa. Sì. È appena il 30%, anzi quest'anno è stato il 29%, 5 anni fa era il 30%, e questo è bene o male la media ovunque, quindi non ci sono grandi differenze, anzi il Belgio, dico che è il paese in Europa, uno dei paesi del mondo in cui c'è la più bassa affluenza, quest'anno credo sia stata il 19%, è molto triste perché denota il fatto che gli italiani presenti qui da molti anni si sono ormai disaffezionati dall'Italia. Sì, sono anche molto integrati. Votano in Belgio, esatto. Sono cittadini. Ma forse anche perché qui hanno l'abitudine al voto obbligatorio, dove ti arriva la convocazione a casa e se non vai a votare ti fanno la multa. Forse anche quello, il fatto di che è libero, allora uno dice vabbè, allora non ci vado, dà meno valore, sì, sì. Non lo so. Boh. Ma anche io parlando con un amico che ha la sorella che vive a Roma, gli è arrivata la cartella elettorale qua all'estero. Quindi lei in teoria poteva votare estero e Italia, perché lei è residente in Italia, quindi ci sono anche un po' di problemi burocratici. Benissimo, allora sì. Dopo questa piccola introduzione, pausa musicale e rientriamo in studio. Ritorniamo in studio con il nostro ospite Paolo Margari, uno di noi. Margari, noi abbiamo deciso di farle un test politico da un nostro consulente, Silvio B. Oggi è un pensionato, passa il suo tempo al parco, porta a passeggio il suo cane Dudù, quindi ha molto tempo da dedicarci per queste sue, per le sue consulenze. E quindi la lasciamo a lui in modo da testare il suo livello politico. Prego. Margari, mi consenta, a lei che è disceso in campo come me, mi consenta di verificare la sua preparazione generale. Margari. Lei ha mai inventato la televisione? Inventato? Ha mai inventato il gioco del calcio? Ha mai costruito Milano 2? È mai stato Cavaliere della Repubblica? È mai stato Presidente? Magari mi consenta, ma lei da bambino, quando c'era la guerra, è mai andato al pozzo a prendere l'acqua? Ma credi, Margari, in questo modo lei non sarà mai il presidente contadino degli italiani. Margari, lei ha mai cambiato con le sue mani la moquette del suo ufficio? Quello sì, sì, sì, assolutamente. Credi, Margari, in questo modo lei potrà dire di essere il presidente operaio degli italiani. Margari, lei nell'80% della sua vita non ha mai lavorato, come l'80% degli appartenenti al suo stesso gruppo politico. Magari lei è un fanulone all'80% e lo si capisce da come ha scritto il suo curriculum. Lei ha scritto PhD, PhD, il PH della dermite, il PH della sua pelle. Magari solo un fanulone poteva mettere il PH della pelle sul suo curriculum, come l'80% degli appartenenti al suo stesso gruppo politico. Mi consenta di farle alcune domande di politica internazionale. Prego. Margari, a lei ci piace la Melania Trump? Beh, non dispiace affatto, devo dire. A lei ci piace la Theresa May? A lei ci piace l'Angela Merkel? No comment. Mi consenta delle domande di politica italiana. Margari, a lei ci piace la Rosy Bindi? Ci piace la Mara Carfagna? Ma Crebbia Margari, lei mi ha copiato l'80% del mio programma politico. Lei è un copione all'80%. Lei è un fanulone all'80% e nell'altro 80% è un copione, come l'80% dei componenti del suo stesso gruppo politico. Margari, mi consenta ora delle domande di economia. Prego. A lei ci piace la flat tax? Ci piace contare i soldi della flat tax? Ci piace comprare una villa in Sardegna con i soldi della flat tax? Margari, ma lei ha capito cos'è la flat tax? Eh sì, ho capito che è anche incostituzionale. Ma Crebbia Margari, la flat tax non è una tassa che si paga. La flat tax si riceve ogni volta che si passa dal via al gioco del Monopoli. Margari, lei di economia non capisce l'80% come l'80% dei componenti del suo stesso gruppo politico. Margari, noi abbiamo tante cose in comune. Tutti e due non saremo in Parlamento, ma possiamo vederci nella trattoria romana La Mangiatoia, dove va a mangiare l'80% della politica italiana. Margari, l'aspetto là, e appena trovi il parcheggio io le insegnerò come si fa il buon governo e le spiegherò che cos'è la libertà. Ma Crebbia, mi consenta, devo portare Dudu a fare la pipì. Buona Ringraziamo fortuna. Il nostro consulente Silvio B. Ci risentiamo tra poco. Come è nata la passione politica? Cioè, a un certo punto tu hai deciso di entrare in politica e di darti... dare il tuo impegno in questo... Ho deciso di propormi come candidato, ma in realtà la passione politica è qualcosa che ho con me, diciamo, da molti anni, da quando ero teenager. Perché credo che tutti debbano avere un minimo di passione politica. La politica non deve essere ritenuta come qualcosa di sporco, ma come qualcosa che consente al cittadino di partecipare, di essere pienamente un cittadino. Ma come vede la politica uno che ha vissuto tanto all'estero? E come la vede dopo aver vissuto tanto all'estero e vedere la politica com'è, diciamo, la concezione politica che c'è in Italia, sia da parte dell'elettore che o è disinteressato o è completamente preso dalla passione politica, e il politico che affronta le iniziative politiche in maniera abbastanza personale. Sì, e questa è una domanda interessante, perché io mi sento più vicino al paese quando sono all'estero rispetto a quando sono in Italia. Ci si sente più italiani forse quando si è all'estero, si apprezzano di più le differenze, sia pur mi sento integrato qui in Belgio. Comunque devo dire, ho a cuore le vicende del paese, perché da fuori è come avere un osservatorio privilegiato, perché c'è la possibilità di comparare quello che accade altrove, che non è sempre meglio. Noi abbiamo sempre questa tendenza nel dire che l'Italia fa schifo o altro. Io non la penso così. Sicuramente abbiamo tante cose da migliorare, tantissime, e vivere all'estero dà la possibilità di prendere quello che c'è di buono altrove, anche in Belgio. Cioè, secondo me si vive meglio in Belgio, però sappiamo benissimo che anche non è famosa la burocrazia belga sotto tanti aspetti, e i belgi si lamentano, ma credo che tutti i cittadini si lamentino sempre del proprio paese, di qualcosa. Per cui anche ci sarà qualcuno in Svizzera che dirà che la Svizzera è sporca, voglio dire, poi possiamo comparare quanto è, voglio dire. E quindi ci sono i pro e i contro ovunque. E partecipare alla vita politica è importante, e ci sono tanti modi di partecipare, non necessariamente tramite i partiti o i movimenti o altro, e non necessariamente da candidati. Quello che noto è che oggi, soprattutto in Italia, siamo andati verso una sorta di personalizzazione della presenza politica, perché da 10 anni a questa parte, anche forse da 20 anni, abbiamo visto comparire sui simboli dei partiti i nomi, i cognomi dei candidati. Anche in questo caso c'era un candidato che non poteva presentarsi perché era incandidabile, eppure c'era il suo nome con sottoscritto presidente. Questo è un paradosso, perché non è una persona che poteva essere votata effettivamente. Quindi c'è l'elettore che vota la persona, non vota più l'ideologia o il posizionamento di un partito a destra piuttosto che a sinistra. Siamo in una cosiddetta fase post-ideologica, quando io in realtà credo che le ideologie non muoiano mai. Anche dire io non credo in nessuna ideologia è se stessa un'ideologia, cioè può essere definita qualunquista, può essere definita, non so, qualsiasi cosa. Pertanto quello che mi preoccupa un po' è il fatto che le persone possano scegliere in maniera radicalmente opposta rispetto a quello che hanno scelto magari 5 anni prima, e questo crea una instabilità, perché abbiamo visto ad esempio a Roma abbiamo avuto 3 sindaci nell'arco di 5-6 anni di 3 schieramenti sì, differenti. E questo è un po', cioè, chi ha votato prima a destra, poi a sinistra, poi un esponente, diciamo, né di destra né di sinistra, ha dimostrato... Esponente oltre. Oltre, effettivamente, dimostra come non abbia un'affezione verso una ideologia, ma le provi tutte a un certo punto. Ma appunto, forse anche per una certa delusione. Sì, ma è una delusione eterna. Io ascoltavo ieri un'intervista di un giornalista che ripeteva come in Italia non abbiamo mai avuto un governo confermato alla seconda tornata elettorale. Abbiamo sempre avuto... è un cambiamento, un'alternanza, mentre in altri paesi accade, ad esempio la Merkel in Germania è stata confermata per 4 volte, sia pur con vicende alterne, con grosse coalizioni. In Italia questo non accade. Però cioè, per la Merkel è stato facile, perché voglio dire... Beh, Fabrizio, però secondo me ci sono anche altre dinamiche, nel senso che se si guarda un po' a quasi tutti i paesi europei, anche nei paesi classici dove classicamente c'erano 2 poli come in Inghilterra, è già da un po' che ci sono governi di coalizione, in Spagna... In Germania siamo già, penso, alla 3ª grossa coalizione. Sì. Cioè, io penso che questa frammentazione sia un po' ovunque. Per ritornare al Belgio, mi viene a dire che è l'unico paese che, dove la crisi non ha portato alla nascita di nuovi partiti, tra virgolette. Cioè, nel non senso... solo, ma la crisi che hanno avuto, sono stati un anno senza governo, sì, e sono andati benissimo. Certo, no, ma in generale, se tu guardi in Spagna, anche in Portogallo non ci sono stati dei movimenti, sono nati dagli indignados, per dire. In Spagna sì, in Belgio sono rimasti gli stessi partiti del sistema ottocentesco, liberale, cristiano, uno nazionalista, uno socialista, uno mezzo comunista. Cioè, questo per me è incredibile, vivendo qua da quasi 14 anni, è un po' incredibile. Mi piacerebbe un giorno capire perché, però vabbè. Interessante davvero, sì. In Italia invece apriamo la scheda elettorale, ogni 5 anni più del 50% dei simboli non esistono più. C'è un rebranding continuo, è un riposizionamento di molti politici, sia fra partiti, cambiano casacca come niente, sia nel posizionamento, perché abbiamo partiti che erano molto a sinistra si sono orientati al centro, altri invece erano a destra si sono mossi verso il centro, quindi c'è molta instabilità. Partiti che erano regionalisti, che adesso, diciamo, cioè partiti che erano regionalisti che adesso sono votati anche in Calabria. Sì, cioè, anche lì, cioè, togliere un nome da un simbolo sperando di, e poi effettivamente avendo successo. Funziona. Sì, non in maniera clamorosa, però sì, ha funzionato, si ha dato un vantaggio senza dubbio. E quindi questo di... ma l'elettore davvero non conosce la storia, non si informa. Io credo che questo è un problema, l'informazione e la consapevolezza dell'elettorato. Perché se non c'è un elettorato maturo in qualunque paese, a prescindere da quello che si vota, comunque il risultato non sarà mai un risultato informato, è sempre un risultato parziale, disinformato, certamente... Ma io appunto, una mia curiosità... Quanto secondo te, o anche secondo Fabrizio, le nuovi mezzi di comunicazione, social network, hanno cambiato il modo di rapportarsi, di acquisire le informazioni, e non anche lo so. Rapportarsi col politico. Ma non solo da noi, tantissimo. Anche negli Stati Uniti, cioè per dire ovunque, in generale. Tantissimo, se pensiamo che anche Trump ormai fa la politica estera su Twitter. Su Twitter. Cioè, ormai Twitter e Facebook sono diventati i canali principali di informazione politica per molti e anche i veicoli principali di consenso. Cioè, noi possiamo costruire consenso e demolire consenso attraverso uno scandalo diventato virale sui social network. E questo non accadeva sino a 10 anni fa. C'erano già i social network, ma non erano così presenti nella nostra vita. Oggi invece è chi beneficiava di giornali e media tradizionali, anche radio, televisione, uno a molti, effettivamente non ha più lo stesso potere, perché ha perso la battaglia di internet, ha perso il consenso. E abbiamo visto quello che è accaduto in Italia. Cioè, prima erano fondamentali, oggi invece fondamentalmente non... Però diciamo che in Italia chi si è buttato anche sui social, sì, moltissimi politici, soprattutto anche il governo, però ne è uscito bastonato. Cioè, diciamo, il capo del governo, o comunque il capo del partito principale sponsor del governo italiano, anche lui... faceva dirette, sì, rispondi, cose, però non è che ci ha guadagnato. Un difetto di comunicazione. No, però Fabrizio, secondo me, non è solo uno ha guadagnato, ci ha perso. È che Almeno io non sono stato in Italia durante la campagna elettorale, però mi hanno detto che laddove si potevano affiggere diciamo i cartelli elettorali, sì, c'erano i buchi vuoti. Erano vuoti, cioè, non ci sono soldi. A prescindere da vinto o perso, no, ma non solo. Preferivano investirle nelle pubblicità a pagamento su Facebook o Twitter. Sì. Incredibile. Sì, concordo su questo, tantissimo. Cioè si spende tantissimo sulle pubblicità online, non si spende più su quella cartacea, perché non c'è più interesse per le strade, ma non si fanno neppure comizi come un tempo. Prima c'erano comizi in cui, non so, Berlinguer riempiva una piazza con 100.000 persone, oggi invece si va nei teatri e si riuniscono a malapena. Si invitano 100 persone. Persone selezionate che poi possano in qualche modo divulgare la voce. Amplificare, moltiplicare il messaggio tramite i social. All'americana. Quindi si fa una diretta e si raggiungono 100.000 persone su Facebook. Ma allora come mai c'è ancora, cioè, oggi come oggi in Italia è rimasto un solo partito a fare la piazza, cioè i comizi in piazza, radunare persone, sì, e poi è quello che è risultato vincente. Quindi alla fine ha funzionato il contatto. Vabbè, diretto. Fabrizio, più di uno, dai, insomma. Ma io non ho visto molto. Beh, non so se ha funzionato, ma senza dubbio è l'unico che si può presentare ai cittadini senza rischiare di ricevere fischi. E questo è importante. Non credo che il precedente Presidente del Consiglio abbia fatto male la comunicazione online, nel senso che quando ha raggiunto il 40%, comunque era frutto anche di quella comunicazione online. Poi che è successo? L'opinione pubblica è cambiata, quindi l'opinione pubblica è come un'onda, come uno tsunami, può cambiare, pertanto quella popolarità può diventare impopolarità, perché uno che ha tanti followers automaticamente trasforma buona parte di quei followers in nemici che cominciano a criticarlo. Basta uno scandalo per trasformare l'opinione pubblica, e quindi non è importante avere un elevato numero di followers, ma è importante avere un elevato numero di multipliers, di persone che diventano ambasciatori del messaggio, che credono in qualcosa. Quindi molto si gioca con la pancia, non con la testa. Questo per collegarmi a quello che dicevo prima. Quindi è chiaro che per avere molti il consenso è legato anche all'assenza di errori, cioè non poter essere additati o associati a qualcosa di negativo che accade o che è accaduto. Alla percezione. Quindi, di assenza di errore. Attenzione, c'è una differenza fra essere, diciamo, immacolati e essere percepiti come immacolati. A volte si passa per vittime e questo vittimismo trasforma un carnefice in vittima, per cui stravolge un po' i ruoli. E questo è successo molte volte in Italia. Sappiamo, abbiamo avuto un ex presidente del Consiglio, Piagnucolone, che sta ancora lì a lamentarsi, avrà subito tantissimi processi, altro. Non faccio riferimenti a fatti personali. Piccola pausa musicale, ritorniamo in studio col nostro ospite. È tornato a trovarci Nicola, il ristoratore di Bari Vecchia, vi ricordate? Il difensore delle tradizioni della terra di Puglia, un mondo che rischia di scomparire minacciato dalla globalizzazione e dalla insensibilità del turismo di massa. Benvenuto Nicola. Pure a te. La volta scorsa ci hai parlato del cibo di Bari Vecchia. Perché oggi non ci parla del suo quartiere, Bari Vecchia appunto, che è il centro storico della città di Bari? Bari è provincia di Bari Vecchia, che è la capitale della regione di Puglia. L'uomo preistorico ha fondato prima Bari Vecchia e poi si è allargata a tutta la regione. Qui a Bari Vecchia abbiamo sui muri le pitture rupestri dei nostri anteneti. Ci sono le pitture rupestri? Davvero? Ma che cosa raffigurano? Scene di vita antica. A sinistra ci stanno dei primitivi che mangiano le orecchiette con le cime del rape. A destra, pesce. Se capiamo bene, le prime tracce di civiltà rappresentano attività che ancora oggi voi continuate. Ma ci tolgo una curiosità. Dove si trovano esattamente queste pitture rupestri? A Bari Vecchia. Sì, abbiamo capito, Bari Vecchia. Ma dove si possono ammirare esattamente? Come si può riconoscerle? A sinistra ci stanno dei primitivi che mangiano le orecchiette con le cime del rape. A destra, pesce. Vabbè, senta, ci dica qualcosa della vita a Bari Vecchia. Cosa si fa, quali sono le attività, eccetera. Di giorno, quando fa caldo, la gente si rintana dentro le cantine con soffitto avvolto al fresco. Quando fa freddo, la gente si rintana dentro le cantine con soffitto avvolto al caldo. Ma come passano il tempo all'interno delle loro cantine? Quelli a sinistra mangiano le orecchiette con le cime del rape e quelli a destra, pesce. Ma quando invece non mangiano, cioè quando sono all'esterno, fuori di casa, nei vicoli di Bari Vecchia, che cosa fanno? I vecchi guardano i giovani che giocano a calcio per le strade di Bari Vecchia. Ma così, per passare il tempo? No, è proprio un'attività economica di Bari Vecchia. Ma ce la può spiegare meglio? Il calcio a Bari Vecchia non è giochete come da voi, è giochete come diciamo noi. Si taglia il pallone, si fa uscire l'aria e si riempie di sessi, pietre, sabbia o gusci di conchiglie di cozzo di vongole. Ma perché? In questo modo diventa pesante e chissà quanti vetri di finestre si saranno rotti. È proprio per evitare che si rompano i vetri delle finestre che gli insegniamo a fare così. I vetri sono pericolosi, ci si taglia. In questo modo il pallone diventa pesante e non vola in alto. Ah, serve ad evitare che facciano dei danni, che rompano le finestre e si feriscano quindi con i vetri. Ma quindi è una bella idea. Certamente. E poi fa bene. Sviluppa le gambe dei bambini. Non è un bullone, ma una bomba di cannone. Diventa duro, ma duro, che le gambe dei bambini diventano forti come un bulldozer. Le partite di calcio si trasformano in demolizione di case che cambiano i piani urbanistici della città di Bari Vecchia. Addirittura. Quando qualcuno deve aprire una finestra abusiva, oppure una porta abusiva, oppure vuole abbattere un muro esterno per ingrandire la casa, basta che disegni una porta da calcio sul muro. Poco dopo, i bambini di Bari Vecchia arrivano come le mosche, con i palloni, e cominciano a giocare. Tirano certe bombe, ma certe bombe che a fine partite ci sta la breccia nel muro come a Porta Pia. A volte, per farli smettere di giocare, bisogna sparare in alto col fucile, sennò ti abbattono tutta la casa. Ma noi pensavamo che in questo modo si riducessero i danni e che il pallone pesante non arrivasse alle finestre e non rompesse i vetri. Ma ci spiega un attimo. Oh, i vetri mica si rompono. Le finestre crollano intere insieme al muro. Ah, in questo modo le strade di Bari Vecchia hanno formato dei campioni di calcio. Tutti ci ricordiamo di Antonio Cassano. Cassano? Ma quale Cassano? Quello correva e basta. Quando colpiva la palla cascava per terra e voleva il rigore. A Bari Vecchia sono nati campioni come Pietro Spaccapietre, Mimmo Mezzomarmo, Granat Granitico, Roccio Roccioso. Questi sono i campioni di Bari Vecchia. Ma noi non li abbiamo mai sentiti. E per forza sono rimasti tutti da noi. Mica li abbiamo fatti andare via. Ma oggi abbiamo un nuovo fuoriclasse di Bari Vecchia. Si chiama Oronz, ha 7 anni. E tira certe bombe. È un futuro campione di calcio. Un giorno lo vedremo giocare in Serie A. Ma quale Serie A? Il futuro di Oronz sta nelle demolizioni. Quello con 4 tiri ti fa il taglio di una porta di un garage al millimetro. È preciso come una sega circolare d'acqua. Ma come l'avete scoperto? Un giorno si è messo a giocare davanti al ristorante. Fa un tiro e mi stacca l'insegna. Un altro tiro e mi scrosti i muri. Un altro tiro e si ribalta il bar. Ci ho detto, sparpacellone, non tira i racchetti, tira il muro, così apro una vetrina. Oronz ha cominciato a tirare dritto contro il muro. Oh, dopo pochi tiri, aveva l'apertura di una vetrina abusiva sulla strada. Abusiva? Ma non si può! È quello che mi ha detto la guardia del comune. Nicola, ma che stai facendo? Non si può, ci vuole il permesso. Ci ho risposto, è certo che ci ho dato il permesso, altrimenti a quello sparpacellone di Oronzo ci spezzavo tutti gli ossi. Così dopo ci ho avuto la mia vetrina abusiva. Ma cos'è che fa crescere così sani i bambini? L'aria? Ma quale aria? Qua crescono bene perché mangiano bene. Cosa gli date da mangiare? Cibo genuino, naturale, biologico? E certo, tutte robe buone fatte in casa, orecchiette con le cime del rape e pesce. Adesso capiamo. La ringraziamo per il suo tempo. La salutiamo dando l'appuntamento ad un prossimo collegamento. Pure a te. Ritorniamo in studio col nostro ospite Paolo Margari, uno di noi. Paolo, una domanda. Quanti voti hai ricevuto a queste elezioni? Ho ricevuto poco più di 6.000, ma devo dire che ancora gli scrutini sono aperti. È strano a dirsi, ma è così da oltre 10 giorni. Il conteggio non è finito perché ci sono stati problemi sospetti di brogli, per cui credo che riceverò circa 6.500 alla fine dello scrutinio. E una domanda, ma erano previsti o si aspettava di più? Perché a me sembrano un bel pacchetto di voti. Sono tanti, erano diciamo previsti magari 1 migliaio di più, secondo le mie stime, ma non molto di più, per cui questo è quello che... Ma il conteggio lo stanno rifacendo per tutti i candidati di tutta la circoscrizione estero? Scusa. Cioè, il conteggio lo stanno rifacendo per tutti o ancora non hanno finito di fare il conteggio? In Europa. Mancano 50 sezioni in Europa, ogni sezione corrisponde a circa 500 voti, per cui mancano 25. Allora, a proposito di questo, una domanda. Ma il suo partito o il suo gruppo politico permette di partecipare alle parlamentarie, attraverso le parlamentarie, alla possibile elezione. Lei quanti voti ha preso o nomination ha preso alle parlamentarie? 23. Beh, ha fatto un bel botto, da 23 a 6.000. Beh, ma c'è da dire che le parlamentarie riguardano solo gli iscritti alla piattaforma e residenti nei paesi, quindi non in Italia, ma solo residenti nei paesi europei, per cui non sono tanti. In totale hanno votato circa 680. Ma ci tolgo una curiosità, quanti amici ha su Facebook? 3.500 circa. Ah, parecchi. E follower sui vari social? Circa 15.000. 5.000 su Instagram. Magari se lei si dovesse presentare sui social, lei vincerebbe sicuramente. Ma molti sono amici in Italia e molti sono amici stranieri che non votano per le elezioni italiane, quindi 3.500 amici su Facebook, magari gli elettori sanno appena neppure 1.000. Comunque, mi ha detto su Facebook 3.500. Sì. Ma lei ha fatto il botto su Facebook, è uno dei più seguiti. Beh, lavoro anche con questo, diciamo che sono su internet da sempre, il mio primo sito l'ho aperto nel 98. Quindi... Mi spieghi una cosa, ma quando deve fare gli auguri di compleanno? Lei passa mezza giornata a fare gli auguri di compleanno a tutti i suoi... No, se mi accorgo sì, faccio gli auguri senz'altro, altrimenti pazienza ormai. E adesso le faccio una domanda sul carattere. Quante richieste di amicizia ha ancora da approvare? Credo oltre un centinaio, ma non le approvo tutte perché a un certo punto... Questo è l'acquisizione del carattere. Il carattere dell'uomo si capisce da quante richieste di amicizia che ancora non ha accettato. Credo che sia più l'algoritmo che il carattere, perché Facebook tende a suggerire amicizia quando uno presenta molti amici, tende a suggerire ancora di più, per cui è un po' si moltiplica. Sono le persone che potresti conoscere. Sì, sì. Ma invece proprio domande, richieste di amicizia? Sì, ne ricevo tantissime, ancora ho tantissime. Però non le vale tutte? No, onestamente, sappiamo che c'è un limite a 5.000 amici comunque, per cui magari le accetterò, ma non conosco la persona, pertanto... Perché, per esempio... Io ho più persone in attesa, amici reali, in attesa di risposta, piuttosto che quelli che ho su Facebook, sì. Io personalmente. E ho impiegato 2 anni ad accettare la richiesta di amicizia di mia moglie, perché Facebook è una cosa seria e non va svenduta così. Fabrizio, c'è un rapporto con Facebook proprio, guarda. Sì, sì, io lo adoro, veramente lo adoro. Quindi, insomma, partiamo da una bella base di consenso. Ma attenzione, ecco, proprio questo, dicevo anche ricollegandoci a quanto dicevamo prima, avere dei like su Facebook, ad esempio avevo una pagina candidato con anche lì circa 3.000 like. Ci sono stati candidati che avevano molti meno like, ma hanno preso più voti, candidati che erano molto più popolari online e hanno preso meno voti. Per cui avere un like su Facebook o un'amicizia non significa che automaticamente questa si traduce in voto, anche perché sappiamo come funziona l'algoritmo di Facebook. Non tutti coloro che sono fra i nostri amici vedono i nostri messaggi o ricevono aggiornamenti. Pertanto una persona va contattata tramite messaggio, o meglio ancora di persona. Quindi essere lì su Facebook è un'illusione. Avere 1 milione di followers non significa essere così popolari. E questo c'entra anche con i potenziali brogli che ci sono stati, le denunce di brogli che ci sono stati per il voto all'estero, visto che è un social media di voto... Non credo proprio che c'entrino con i brogli. I brogli sono un altro aspetto e sono molto gravi. Purtroppo si sono ripetuti anche in questa occasione, anzi a quanto pare in maniera molto più marcata rispetto alle precedenti edizioni, e dipendono dal sistema di voto, perché è molto farraginoso questo sistema postale. Cioè, noi riceviamo delle lettere che non sono raccomandate con ricevuta di ritorno, ma sono semplici lettere che vengono lasciate nel postino nelle nostre buche, per cui chiunque può prenderle. Molti cittadini italiani residenti all'estero non hanno aggiornato il proprio indirizzo all'AIRE quando cambiano casa. altri sono defunti ma ancora ricevono le lettere perché gli elenchi non sono aggiornati. Ma soprattutto è possibile farsi stampare le cartelle elettorali direttamente da... In teoria sì, questo a quanto pare è successo, ci sono state delle inchieste delle Iene che mostrano come alcune tipografie, in particolare una a Colonia, si sospetta abbia stampato, cioè sono state riprese delle schede elettorali stampate. A quanto pare il file PDF delle schede è finito nelle mani di qualche tipografia che poi le ha stampate. Ma non è solo questo, abbiamo dei sistemi di controllo, nel senso che quando si vota all'estero, chi vota all'estero lo sa, mette le schede elettorali col voto in una piccola busta, poi con un tagliandino, con un numero corrispondente all'elettore, queste vanno in un'altra busta e le spedisce. Al momento dell'apertura delle schede, al momento dello spoglio, il presidente di seggio deve prima di tutto verificare se questo tagliandino è presente nei registri. Abbiamo visto nell'ultimo servizio delle Iene, andato in onda domenica scorsa, che questa operazione non veniva fatta per una questione di tempi a Roma, a Castelnuovo di Porto, dove c'è lo spoglio di tutte le schede estere. Questo che significa? Che poi quando la scheda votata viene messa nell'urna insieme a tutte le altre, è troppo tardi, non c'è più possono modo di verificare. Possono essere di più di quelli che hanno votato realmente. Esatto, quindi poi magari vengono eliminate le schede per far combaciare i numeri di tagliandini con le schede, però magari chi aveva diritto non vota e chi invece non aveva diritto, magari una scheda falsa, viene conteggiata. E quindi per rimediare a un errore l'arbitro ne fa un altro. Esatto, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, ma qui siamo nell'ambito di un reato. Una cosa, visto che il tempo oramai è scaduto. Sì. Quanto tempo per fare un governo? Speriamo poco, dal 23 di marzo, il 23 sarà il giorno in cui saranno convocate le Camere per la prima volta, il 19 marzo ci saranno gli eletti saranno proclamati, per cui dovremo entro fine mese avere un'idea chiara. È chiaro che abbiamo poche chance, diciamo, di arrivare subito in maniera lineare a un governo e si tratterà di fare degli accordi. E tutto può essere possibile, ma non sappiamo poi soprattutto se un governo sarà fatto, quanto durerà. Quanto durerà. Allora, su questa domanda esistenziale, purtroppo il tempo è scaduto e dobbiamo chiudere. Speriamo di riaverti casomai ospiti in un'altra puntata. Con molto piacere. Per poter continuare questo discorso, magari parlare anche di molto altro. Salutiamo i nostri ascoltatori, diamo appuntamento la prossima settimana. Sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9 FM. Ciao.